L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'Altra Europa, l'appuntamento che dedichiamo ogni settimana a fare il punto, a raccontare l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, le altre facce di questa Europa. È l'ultima puntata dell'anno, quindi sarà una puntata dove faremo un po' il punto di tutto ciò che è stato fatto, ma anche di quello che ci aspetta nella prossima annata, nel 2015. Vi ricordo che hanno il programma in collaborazione con Euronet Plus, ci trovate quindi anche sul portale Euronet Plus. .eu, questo network, tante radio, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa, e poi sulle nostre piazze virtuali, le piazze digitali, chiocciola Federico Taddia sia su Facebook sia su Twitter, oppure chiocciola Euronet Plus R24. Oggi partiamo, come sempre si viaggia, e oggi il punto di partenza è lì, è il cuore d'Europa, è Bruxelles. Sui lavori per le strade della vita, deviazioni assurde del destino, in questa città che di tutti e di nessuno, cerco me stesso e voglio il meglio dalla vita, in questa città che di tutti e di nessuno, ho perso amici alla ricerca del futuro, na, na. Giacomo La Riccia, l'abbiamo avuto ospite qui all'Altra Europa, cantautore italiano, vive a Bruxelles e da lì canta l'Europa. Partiamo da Bruxelles perché con noi c'è Antonietta De Murtas, giornalista e corrispondente proprio da Bruxelles per Lettera 43, che ha scritto un divertente, stimolante, anche provocatorio glossario sull'Unione Europea, su questo cammino, su questi 12 mesi. Ciao Antonietta, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Hai fatto un po' un riassunto, una fotografia di questa Europa a fine anno, hai usato l'alfabeto, hai usato il glossario, sei andata a cercare un po' le parole che meglio rappresentano questo 2014. È stato facile fare questo lavoro di sintesi intanto? Ma all'inizio l'idea era quella appunto di fare una cosa semplice per parlare un po' di Europa fuori dagli schemi, poi in realtà passando alla fine dei 12 mesi mi sono accorta che cose ne sono successe tante, che anche spiegarle nello spazio di un possibile glossario non era così semplice, però mi sono divertita. Da cosa sei partita? Come? Insomma, da italiana non potevo che rendere un omaggio all'alto rappresentante per la politica estera, che è appunto Federica Mogherini, che ha preso il posto di Catherine Ashton il 30 agosto. Ricordiamo che il primo summit il 16 luglio non era andato a buon fine, ancora era troppo presto per fare il nome dell'alto rappresentante. Renzi ha spinto tantissimo, ma alla fine insomma siamo riusciti ad avere questa carica, che è importante perché Lady Pest, così viene chiamata, è anche la vicepresidente della Commissione europea, e per quanto insomma in Italia di politica estera si pensi non si possa, insomma, non possiamo incidere più di tanto, qua a Bruxelles è un ruolo molto importante. E quindi da A come alto rappresentante, a Z come Zurigo, perché appunto hai evidenziato il referendum contro l'immigrazione di massa che ha comunque creato tensioni tra la Svizzera e l'Unione Europea, hai giocato con le parole e apri il tuo pezzo dicendo This time is different, che è stato lo slogan più usato nel 2014 a Bruxelles. Sì. Lo hai sentito pronunciare? No, è stata apprezzata la città con questo slogan. Il Parlamento Europeo ha persino speso 16 milioni di euro per fare una campagna virale per convincere i 500 milioni di cittadini europei, possibili elettori, a scegliere insomma i propri rappresentanti del Parlamento di Bruxelles. E quindi insomma tanto different era perché quest'anno le elezioni davano un potere in più grazie al Trattato di Lisbona agli elettori e allo stesso Parlamento attraverso il principio dello Spitzenkandidaten, che era quello per cui il gruppo politico che riceveva più voti poteva fare il nome del presidente della, del futuro presidente della commissione, ed è così che è stato, perché avendo preso più voti il Partito Popolare, Jean-Claude Juncker è stato nominato e poi eletto presidente dell'esecutivo comunitario. Certo, ecco, ma questo spirito, questo tempo finalmente diverso, finalmente differente, lo si vive ancora? C'è ancora questa sorta di entusiasmo che ha comunque... Sì, sicuramente sì, è tutto un cambiamento in questo momento, perché comunque quest'anno non è solo la presidente italiana che ha guidato il semestre, ma è stato l'anno delle elezioni, l'anno del rinnovo delle cariche della Commissione Europea, non solo il presidente ma tutti i commissari, l'anno in cui il nuovo presidente del Consiglio Europeo è stato eletto Donald Trump, che è appunto un polacco, quindi un riconoscimento a quei paesi dell'est ultimi arrivati all'interno dell'Unione Europea. Insomma, e soprattutto tutte queste cariche devono ancora, diciamo, prendere potere e soprattutto dimostrare di avere questo potere attraverso i fatti, quindi l'attività legislativa, diciamo, sta per cominciare. Certo, vediamo. Tante facce nuove, adesso vedremo anche queste teste all'opera. E B come Barack Obama, C come Commissione Europea, D come debito o deficit, F come flessibilità, E come euroscettici. Così sto leggendo un po' tutto l'intero glossario che potete trovare poi sul portale lettera43.it. Due parole che meglio di altre raccontano anche il tuo 2014 europeo, le cose che più ti hanno colpito, che più ti hanno interessata. Ma sicuramente una delle cose nuove, soprattutto per Bruxelles, è stato innanzitutto il G7, che quest'anno era in formato ridotto, appunto dal G8 è diventato G7. Per la prima volta la capitale europea ha ospitato questo evento, per la prima volta questo evento è stato celebrato senza la Russia, appunto diciamo così, punita per aver occupato, per aver diciamo incluso la Crimea appunto nel proprio stato. E poi naturalmente la visita di Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, che per la prima volta è venuto nella capitale europea non solo per stringere diciamo un accordo commerciale con l'Unione Europea, che è il tema quest'anno, il TTIP, il famoso trattato transatlantico, certo, ma anche per lavorare a un'agenda politica comune che riguarda appunto non solo gli affari di politica interna, ma i rapporti con la Russia, la crisi ucraina e le possibilità, anche le possibili partnership commerciali per quanto riguarda il commercio dello shale gas. Unione Europea, le parole chiave del 2014 a Bruxelles, i fatti più importanti di un anno d'Europa dalla A alla Z, questo è il bel articolo di Antonietta De Murtas, lettera43.it. Grazie davvero Antonietta, ciao e buon anno. Grazie a voi, buon anno. Ciao. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Il premio Commercio Roma porta la bottega nel futuro. Con la quinta edizione della borsa di studio Premio Commercio Roma, gli studenti delle scuole superiori della capitale sono chiamati a redigere proposte e progetti per rilanciare il proprio territorio a livello economico e sociale. L'obiettivo è quello di portare la bottega artigiana nell'e-commerce e svecchiare il mondo del commercio, coinvolgendo a tal fine la capacità critica di valutazione degli studenti delle scuole medio superiori dei 15 municipi capitolini. Il bando, che ha ottenuto il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, scade il 12 aprile 2015. Per tutte le informazioni, mediocreditocentroitalia.com/premio commercio Roma. L'altra Europa. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing Time in questa puntata di sabato 27 dicembre, puntata di chiusura, puntata di verifica, puntata dove andiamo a raccontare l'Europa che è stata, l'Europa che è, l'Europa che sarà, l'Europa che ha visto l'Italia protagonista in questo semestre, quindi ci sembrava bello, giusto e doveroso fotografare quello che è stato e un po', insomma, questa avventura particolare, questa avventura straordinaria, questa avventura anche in un semestre strano, perché è il semestre di insediamento, insomma, della nuova guida, della nuova commissione, del nuovo Parlamento. Di tutto ciò ne parliamo con chi questo semestre l'ha vissuto alla grande in ogni suo istante. Diamo il benvenuto a Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei. Buon sabato, Gozi. Buon sabato a voi. Allora, questi sei mesi come verranno ricordati? Verranno ricordati come un cambio di priorità, un cambio di metodo e un'Europa che finalmente sta cambiando volto. È evidente che abbiamo oggi un'Europa più consapevole delle sfide, più concentrata su quelle priorità su cui veramente l'Europa può fare la differenza e anche più impegnata a cambiare un metodo e a fare ritornare la politica a primeggiare sulla tecnocrazia. Gozi, sono volati questi sei mesi, ne sarebbero corsi altri sei per fare veramente tutto quello che si sperava di fare? Beh, per cambiare l'Europa come ne vogliamo occorre un lavoro intenso come abbiamo fatto in questi sei mesi per cinque anni. Però noi abbiamo cercato di mettere sul binario giusto l'Europa perché adesso non sia un treno regionale ma sia un treno ad alta velocità. L'alta velocità è un grande risultato dell'integrazione europea. Speriamo che l'alta velocità sia anche la caratteristica di questa Europa che deve raggiungere rapidamente, vuol dire nel giro di una legislatura, quei risultati che invece ha trascurato o a cui ha rinunciato, direi, nei dieci anni di Barroso che sono finalmente finiti. Ecco, al di là della facciata, al di là dei mille appuntamenti anche che ci sono stati, secondo lei qual è il punto di forza di questi sei mesi e invece anche il punto magari dove avete fallito, comunque dove, ahimè, rimane un po' di mal di pancia per quello che non si è riuscito a fare? Allora, i punti di forza sono avere posto al centro non solo del dibattito ma del negoziato politico il tema di un'altra politica economica, il tema della politica della crescita, il tema degli investimenti, ed è stato questo il primo punto su cui qualche giorno fa abbiamo concluso il Consiglio europeo, il primo Consiglio europeo di Donald Tusk, che è stato appunto caratterizzato da un dibattito che sarebbe stato non solo impossibile da fare, ma impossibile da pensare solo un anno fa. Pensare un anno fa che i leader europei avessero passato un'intera giornata a discutere di come promuovere una nuova politica degli investimenti, di come promuovere un piano per gli investimenti, era del tutto impensabile un anno fa, oggi non solo è pensabile, è realtà ed è la grande priorità politica. L'altro punto che è solo il vertice poi tra americani e cinesi ha fatto capire quanto importante è stato il cambiamento climatico. Noi in ottobre abbiamo raggiunto una posizione importante, ambiziosa, unitaria dell'Unione Europea sulla lotta contro il cambiamento climatico e per una nuova politica dell'energia in vista dei negoziati globali di Parigi del prossimo anno, e pochi giorni dopo il nostro vertice sul clima, americani e cinesi hanno detto anche noi vogliamo partecipare, vogliamo dare finalmente questa volta un contributo assumendoci le nostre responsabilità. Questo è un grande risultato. E il terzo punto certamente la nuova impostazione sulla politica dell'immigrazione è fondamentale per l'Italia. Nello scetticismo generale avevamo detto in maggio che avremmo trasformato l'operazione Mare Nostrum tutta italiana, tutta a responsabilità e a costo dell'Italia, in un'operazione europea. Questo oggi è una realtà, non c'è più Mare Nostrum, c'è un'operazione Tritone che è anche quello un primo strumento di una nuova politica dell'immigrazione legale e illegale, della lotta contro i traffici di esseri umani e anche di una nuova cooperazione tra Unione Europea e paesi da cui vengono i flussi migratori, che deve essere la caratteristica e la priorità dell'Europa nei prossimi anni. Avremmo voluto fare di più, vincere più le resistenze sul Made In. Sì. Ancora l'Europa è spaccata, abbiamo rischiato addirittura di avere una maggioranza qualificata, cioè che può decidere contro la posizione italiana. Siamo riusciti a difenderci, direi, sul Made In 1-1, palla al centro, però è evidente che quella rimane una questione aperta, così come avremmo voluto fare molto di più, vincere più resistenze e accelerare l'eliminazione del roaming e fare dei passi in avanti sulla neutralità della rete. Purtroppo gli interessi di grandi gruppi economici e gli interessi fortissimi di alcuni paesi ci hanno impedito di avanzare come avremmo voluto. Il tormentone ce lo chiede l'Europa? Arriverà il momento in cui non verrà vissuto più come un'imposizione, come una cosa negativa, secondo lei? Noi abbiamo fatto tutto, questa è la grande forza, il grande merito a mio modo di vedere di Matteo Renzi. Sin dall'inizio abbiamo detto noi dobbiamo fare le riforme nell'interesse dell'Italia e dobbiamo farle per chiedere un'altra Europa. Quindi dal cielo chiede all'Europa e al una Italia più forte per chiedere all'Europa di cambiare. Questo è già una realtà, dobbiamo continuare su questo e la nostra insistenza nella lotta contro l'approccio tecnocratico e nello spingere Juncker stesso, la nuova Commissione, a assumere un atteggiamento più politico, mi sembra che finora abbia avuto buoni risultati. La stessa Commissione, lo stesso Juncker, dice che oggi l'Europa deve essere grande nelle cose grandi e piccola nelle cose piccole. Questo mi sembra una traduzione, diciamo, del nostra insistenza: primazia della politica sulla tecnocrazia, fare in Europa assieme solo le cose che non riusciamo a fare come Stato, come Regione, come società civile. Grazie davvero a Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei. Buon 2015. Grazie a voi, buon 2015 a tutti gli ascoltatori. Buon sabato. Guardare indietro, guardare questi 12 mesi per raccontare cos'è l'Europa oggi, ma in questo momento andiamo oltre i 12 mesi, perché non solo il semestre europeo, no? È stato questi 6 mesi pieni di eventi, anche celebrativi, è stato anche il 2014, l'anno in cui si è parlato e si sta parlando tanto del centenario, della grande guerra. Ecco, anche da lì bisogna e si può partire per capire che cos'è l'Europa oggi. E questo lungo viaggio l'ha compiuto Thierry Vissot, l'economista, storico del pensiero economico. Ha creato e conduce una trasmissione radiofonica settimanale, un libro per l'Europa, prodotta dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, uno che l'Europa l'ha vissuta sempre da protagonista, ed è autore per Donzelli, editore, di un bellissimo libro intitolato Toby, dalla pace alla guerra, una storia esemplare di un qualunque soldato d'Europa. La storia, le storie, una piccola storia di una persona che lui conosce molto bene e diventa una fotografia di questo cammino che si chiama Europa. Thierry Vissot è qua con noi. Ciao Thierry, buon sabato. Ciao, buongiorno a tutti. Chi è Toby? Toby fu il mio nonno, è morto a 99 anni, quindi l'ho conosciuto benissimo. E poi mi aveva affidato le sue lettere, taccuini e ricordi della Prima Guerra Mondiale, che ho potuto fare battere a macchina, e poi ne abbiamo parlato molto insieme, quindi ho potuto avere una prima visione, diciamo, dell'Europa, della sua gioventù. E poi dopodiché ho deciso di fare un lavoro, diciamo, di storico intorno a questa storia individuale di questa persona che ovviamente avevo molto a cuore. Certo, una storia qualunque, no? Un qualunque soldato d'Europa, una storia come tante altre, la storia di un giovane che si trova in trincea forse senza neppure capire il perché. Ecco, cosa significa partire da quella trincea per cercare di raccontare l'Europa? Sì, diciamo che sono partito anche prima, perché questo nonno era già un europeo, ha viaggiato molto, ha lavorato in Inghilterra, in Spagna, e prima del conflitto ha lavorato in Germania. e quindi racconto un po' in questo libro la storia dell'Europa di quest'epoca, un'Europa che era già estremamente aperta, innovativa, piena di idee di progresso, perché c'erano tutte le nuove tecnologie che conosciamo ancora oggi, e quindi la gente non pensava che fosse possibile una guerra, perché c'era già una tale internazionalizzazione. Voglio solo ricordare che l'internazionalizzazione che esisteva prima del primo conflitto mondiale l'abbiamo ritrovato solo negli anni 70, per dire. Quindi era veramente un'epoca dove i giovani avevano tantissimi progetti. Certo, c'era anche una grande povertà, ma si muoveva tantissimo. E ricordo per esempio che nella rivista satirica che si chiama The Punch, nel luglio 1914, cioè qualche settimana prima dell'inizio del conflitto, il grande dibattito era su quale tipo di costume da bagno dovevano scegliere le donne per andare in vacanze in Francia o in Italia o in Inghilterra, cioè per dire che questa guerra non era per niente aspettata dalla popolazione, è stata decisa da pochissima gente in una maniera totalmente incoerente, e questa è una delle prime grandi lezioni, perché l'Europa, l'Unione Europea adesso si basa ancora sull'idea di pace, ma certo, questa pace non è una cosa certa, si può sempre rovesciare, e appunto vedere quello che si è svolto nel 13-14 fa pensare che potrebbe capitare a qualsiasi momento anche adesso. Nulla di scontato, appunto questo è un po' l'appello che si legge tra le tue pagine. Lo ripeto, una bellissima storia, perché è una storia umana, perché è una storia di quotidianità. Prefazione di Paolo Rumiz. E Thierry, un'ultima domanda. C'è qualche similitudine tra quella crisi, una crisi bellica, e la crisi economica di oggi? Cioè anche là è là che ritroviamo le trincee, che se vuoi il problema della guerra è l'utilizzazione di questa prima guerra industriale, è l'utilizzazione dei uomini come degli elementi di una macchina, sì. Cioè non si faceva molte economie, diciamo, sui uomini, si faceva più attenzione alla quantità di bombe da fabbricare che alla quantità di gente che potevano morire sotto queste bombe, e questa impossibilità di pensare l'uomo come un uomo con la sua dignità, con i suoi progetti, è un po' quello che ritroviamo adesso nella gestione della crisi, cioè tutte queste politiche di austerità non considerano gli uomini. Sono stato molto sorpreso di sentire un politico dire: non parliamo di politica di austerità adesso, parliamo di politica di aggiustamento. Ma se quelli che si devono aggiustare sono sempre quelli che hanno di meno, i più poveri eccetera, ma di che stiamo parlando? Certo. È un po' esattamente quello che si è svolto durante questo conflitto, cioè l'assenza di pensiero dei capi per la ricchezza dell'uomo, per la sua dignità, per la sua vita. Meno numeri, più nomi, perché i nomi sono le persone, come tu hai scelto un nome come titolo del tuo libro, Toby, dalla pace alla guerra. Grazie davvero a Thierry Vissola, ciao Thierry, buon anno. Buon anno a voi, grazie. L'altra Europa. Il metodo che stiamo utilizzando è insieme. Ci si sente più forti insieme, gli altri ti possono anche proporre idee che magari vanno meglio di quello che dici tu. Il confronto ci fa crescere. Per esempio, se io so fare una cosa e tu sai fare un'altra cosa, uniamo le due cose e possiamo farle entrambe. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, sono i bambini di Matera che parlano, e con loro riapriamo questa puntata dell'Altra Europa, sabato 27 dicembre. Stiamo un po' facendo il punto di quello che è successo quest'anno, e l'Italia protagonista in Europa, non solo il semestre ma anche per la decisione, per la scelta della città, della capitale europea della cultura 2019. La capitale sarà, come ben sapete, Matera, perché tante volte ne abbiamo parlato. Una scelta importante, una scelta che abbiamo apprezzato, una scelta che ha visto tante città in gara, tante città proporre progetti belli, progetti tosti, città che si sono messe davvero in gioco. Matera è stata scelta perché insomma la giuria l'ha preferita alle altre, e volevamo capire quello che è stato quindi questi mesi che hanno accompagnato la scelta di Matera dal di dentro, quindi la scelta della città, ma soprattutto quello che accadrà ora, perché adesso viene il bello a Matera. E questo lo facciamo con Joseph Grima, che è il direttore artistico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Ciao Joseph, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, tanta soddisfazione, tanta gioia, tanta festa, sappiamo quello che è successo. Leggevo anche che tu eri in Belgio su un palco a parlare di tutt'altro quando è arrivata la notizia, vero? Sì, in effetti, anche devo dire per una certa scaramanzia, perché per le cose più importanti certe volte non esserci, dover fare il sacrificio di non essere lì proprio davanti al palco ad aspettare porta forse anche fortuna, e quindi mi sono perso quel momento di urla gioiosa in piazza, ma abbiamo altri 5 anni per celebrare. Uh-huh. E Joseph, tu sei architetto, vivi a Genova da un paio d'anni, perché un architetto come direttore artistico? Qual è l'idea di fondo che c'è nella visione che avete proposto per la vostra idea di capitale della cultura? Ma devo dire che corrisponde anche a una visione mia molto personale di quello che è l'architettura, quello che significa progettare, pensare, costruire una città, che non è semplicemente fatto di operazioni additive, di mettere mattone su mattone per costruire qualcosa, ma anche di mettere insieme, considerare quasi noi stessi, i nostri corpi, le nostre personalità, le nostre idee come dei mattoni con cui si può costruire qualcosa di ancora più ambizioso, forse, di un edificio, di un teatro, di uno stadio, qualcosa del genere. E quindi ero attratto, devo dire, principalmente, oltre che dalla magia di Matera stessa, che è un magnetismo straordinario, una città che ha una storia, anche un'importanza incredibile per la storia dell'arte, dal paleolitico, neolitico, medioevo, fino ai giorni nostri, con anche interpretazioni di artisti famosissimi e conosciutissimi. Sappiamo tutto anche di quello che ha significato per l'opera di Pasolini, eccetera, sì, e tantissimi altri. L'idea che questo progetto, che è stato espresso attraverso la prima il dossier di candidatura primo che io ho letto, che ha portato l'idea di non basare sul l'importanza storica, ma sulla possibilità del futuro, sull'innovazione, sull'idea che si possa partire da zero e costruire qualcosa di nuovo. E credo che questo è veramente quello di cui l'Europa ha bisogno oggi, e quindi credo ancora più della forma della città l'importanza fosse quello di dire che noi dobbiamo basare la nostra economia futura, la nostra cultura futura sull'idea di innovazione. Open Future è lo slogan che avete scelto, open nel senso di condivisione, di open source, di sharing, Matera come un grande palco dove ci sarà possibilità di fare sperimentazione, di essere incisivi, di essere creativi. Nella tua testa come sarà questa Matera nel 2019? Beh, sicuramente una festa straordinaria, un momento di convergenza di tutta l'Europa, senza dubbio questo è come è stato già in tantissime altre capitali. La particolarità di Matera, secondo me, sarà che noi non offriremo uno spettacolo a cui un pubblico diversificato, locale, nazionale, internazionale, verrà come spettatore, ma offriremo un anno di attività in cui l'audience, il pubblico stesso, sarà autore attivo, sarà parte proprio della programmazione. Tutto quello che noi abbiamo costruito proprio nello spirito, come tu giustamente facevi notare, di open source, eccetera, è l'idea che questo non è qualcosa di autoriale che noi costruiamo e poi un pubblico può passivamente assistere agli eventi, ma piuttosto è qualcosa che viene attivamente partecipato a cui ogni persona che è presente ha un ruolo da giocare, come se fosse un teatro aperto, un palco per un pubblico globale. Un budget di 54 milioni di euro, che sono oggettivamente tanti, ma sono anche pochi in relazione ai budget spesi per altre capitali della cultura in questi anni. Questo budget ridotto però può diventare un valore aggiunto, paradossalmente? Assolutamente, io penso che forse, quasi osservando anche tutte le esperienze di altre città attraverso gli ultimi decenni, non si può generalizzare troppo, però si può dire che forse quelli che hanno avuto un budget eccessivo hanno sofferto proprio di questo budget così enorme da diventare quasi una sorta di macina al collo. Mm-hmm. E penso che l'agilità, cioè una delle forze di questo programma, è che con pochissimo può realizzare moltissimo, perché proprio per questa idea che noi non vogliamo costruire nuove infrastrutture, non vogliamo costruire dei nuovi enormi palcoscenici per produrre, ma noi vogliamo semplicemente, attraverso questi programmi che noi andiamo a realizzare insieme ai materani, insieme alla Basilicata, insieme a tutta Meridione e insieme a tutta l'Italia, vogliamo questi eventi, questi prodotti culturali, tutto quello che noi facciamo è in qualche maniera qualcosa che lascerà un segno profondo, non tanto materiale, non sotto forma di nuovi edificati, uh-huh, nuove strutture, ma sotto forma di nuove conoscenze. Questa è la vera eredità, e la conoscenza è qualcosa che paradossalmente ha un costo molto ridotto se si pensa rispetto a stadi o teatri. Sarà una festa, questo ci ha detto Joseph, una festa che soprattutto tra l'altro avrà una divertente appendice anche il 31 dicembre, il capodanno, perché sul palco ci sarà un DJ materano insieme a un DJ di Mons, Belgio, e un DJ di Pilsen, Repubblica Ceca. Mons e Pilsen sono le due capitali europee del 2015, quindi si entra giusto nel clima con questa festa. Matera Lineta Basilica 2019.it è il sito nel quale si potrà votare anche la propria playlist ideale, a proposito di condivisione. Grazie davvero Joseph, è stato un anno interessante, un anno impegnativo, ma come ho già detto è solo il punto di partenza, quindi buon 2015, pieno di idee, pieno di creatività e pieno di condivisione. Altrettanto a tutti voi, grazie. Ciao, grazie. Europost-it. L'Europa in guerra a Trieste. Prende il via la mostra sul primo conflitto mondiale al Magazzino delle Idee di Trieste. L'esposizione dal titolo L'Europa in guerra, tracce del secolo breve, indaga le cause, le ragioni e le conseguenze della Grande Guerra attraverso 300 opere d'arte dei maggiori artisti italiani ed europei della prima metà del secolo scorso. La rassegna si apre con l'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 e si chiude con l'assedio della capitale bosniaca tra il 1992 e il 1996, che fa da cerniera al Novecento. Per tutte le informazioni, collegatevi al sito traccedelsecolobreve.com. C'è tempo fino al 28 febbraio 2015. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you. Pictures of me. To see pictures of you, pictures of me, remind us all of what we used to be. Raccontare l'Europa passando dalle storie, passando dalle persone, raccontare anche il palazzo attraverso chi il palazzo lo vive da protagonista. Quante volte qui all'Altra Europa abbiamo detto che questo è il nostro modo per narrare l'Europa, quindi anche in questa ultima puntata dell'anno rimaniamo fedeli alla nostra missione, lo facciamo con una bella storia che abbiamo trovato proprio là a Bruxelles. Far vedere l'Europa, questo è il suo scopo, è milanese, italianissimo, e fa il fotografo all'interno del Parlamento europeo. Racconta l'Europa per immagini, si chiama Pietro Naio Oleari, 35 anni, da 9 vive a Bruxelles, è funzionario europeo, e quello che fa è proprio questo, cercare con la sua macchina fotografica di proporre una nuova narrazione dell'Europa. Ciao Pietro, benvenuto all'Altra Europa. Allora, cosa significa per un fotografo essere lì a raccontare cosa? Perché i tuoi soggetti sono prevalentemente, immagino, facce, persone, teste. Infatti, questo è quello che io cerco di fare, cerco di raccontare non solo i politici, ma i politici come persone, quindi cercando prima di raccontarvi appunto con la macchina fotografica, ma anche col cellulare, anche con gli occhi uno può catturare e vedere quello che c'è di bello all'interno del Parlamento Europeo, e questo è quello che io cerco di fare tutti i giorni. Mm-hmm. Cerco di trovare il bello e catturarlo con la mia macchina, con il mio cellulare, tramite Instagram del Parlamento Europeo. E poi chiaramente mandarlo in giro per il mondo tramite tutti i social media che gestiamo, Instagram, Flickr, Facebook e Twitter chiaramente. Certo, tante volte abbiamo sentito dire che bisogna scaldare un po' il racconto dell'Europa, bisogna proporre l'Europa in qualcosa di più cool, in qualcosa di più sexy. Ecco, tu come fai? Qual è la scelta, la strada che hai fatto per cercare di raccontare questa Europa in un modo diverso? Beh, quando sono arrivato al Parlamento Europeo otto anni e mezzo, il sito del Parlamento aveva poche lingue e si stava evolvendo in un sito di 24 lingue, sì. Cioè oggi siamo 24, all'epoca eravamo molto meno, la Croazia è stata l'ultima a aggiungersi. E ho pian piano ho spiegato qual è il ruolo di un photo editor, perché un sito come il Parlamento Europeo aveva bisogno di saper raccontare non solo le notizie con delle foto politiche importanti comprate agenzie, ma anche la vita all'interno del Parlamento in modo diverso, per cui ritratti, non i soliti ritratti in giacca e cravatta, ma ritratti con anche degli oggetti, non so se c'è, mi ricordo un report sul riso, e mi ricordo che avevo chiesto a un deputato di posare con una manciata di riso in mano, riso Carnaroli tra l'altro. E lui era rimasto un attimo sconvolto, era proprio l'inizio della mia carriera, e poi gli è piaciuto il gioco, e da lì pian piano anche nei ritratti cerco di rendere più umani questi deputati che a volte sono un po' troppo ingessati. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, sempre con Pietro Nai Oleari, stiamo raccontando la sua professione appunto di fotografo all'interno del Parlamento Europeo, il punto d'arrivo di un lungo percorso, no? Hai girato tanto prima di arrivare a Bruxelles, vero Pietro? Sì, ho vissuto in Spagna, in Inghilterra, e poi sono approdato a Bruxelles. Uh-huh. E qui ho trovato la mia piccola melting pot, la mia piccola Europa, l'ho trovata qui, ho deciso di fermarmi. Raccontiamo questo 2014 con tre fotografie che poi rilanciamo immediatamente anche sulle nostre bacheche virtuali, Facebook e Twitter, sui miei account personali, @ Federico Taddia. Quali sono tre foto che meglio raccontano questo 2014? Allora, tre foto che io ricordo nel cuore, che una era un po' prima del 2014, è stata alla fine della legislatura corsa, e mi ricordo questo deputato che, entrando in plenaria l'ultimo giorno, l'ultima sessione, si è inchinato e ha fatto un bellissimo baciamano a un'altra deputata come per salutarlo, non verrò rieletto, non mi ricandido, e per me è stato un momento molto bello riuscire a catturare questa foto quasi presa di nascosto, però molto molto sentimentale, come certo. Una rivedersi. Un'altra foto che mi ricordo di quest'anno invece è l'apertura della presidenza italiana. Sì. Renzi era venuto al Parlamento Europeo e in plenaria si era piazzato il solito cordone di fotografi, tutti stretti uno a fianco all'altro. Io ho deciso invece di mettermi in mezzo alla folla, di andare tutto alla sua sinistra e quindi fotografarlo mentre sorride a questi fotografi. E mi ha fatto ridere, perché al di là che la foto ha fatto la nostra prima pagina, poi in altre prime pagine ho visto una foto dove io appaio tutto spostato dietro Renzi, e mi fa ridere, perché rispetto a tutti gli altri fotografi il cercare sempre un'angolatura diversa è qualcosa di importante. Poi non ti sei fatto il selfie con Renzi, vero? No, il selfie non l'ho fatto con Renzi. Bene. Sei uno dei pochi, perché di solito c'è la gara a farsi il selfie con Renzi. E la terza e ultima foto invece che ci vuoi proporre? La terz'ultima foto, posso raccontarti la foto di chiusura di quest'anno? Sì. Che a chiusura dell'ultima sessione plenaria, prima di partire per Bruxelles, ho fatto questa foto. Anche lì ero sdraiato per terra nell'arena del Parlamento Europeo, che è una specie di anfiteatro, ricordo un po' il Colosseo, e ho preso una silhouette di un uomo che cammina in mezzo a una palla di Natale. Molto bella, mi sono bagnato totalmente perché pioveva, ma valeva la pena, ed è l'ultima foto che abbiamo postato su Instagram. La sto guardando, la sto vedendo, è davvero molto bella ed è già sulle nostre bacheche virtuali. Grazie davvero Pietro, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa per dare altre immagini della nostra Europa. Ciao, buon 2015. Europostit Internations, il social network che unisce gli espatriati. Volete trovare lavoro all'estero, ma non sapete quale paese offre maggiori opportunità nel vostro campo professionale? Volete cominciare una nuova vita da espatriati, ma vorreste sapere dove è possibile essere accolti più facilmente dalle comunità locali? Internations è un social network che unisce più di 1 milione di expat in ogni paese d'Europa e del mondo, il cui obiettivo è quello di rendere la vita più facile agli italiani all'estero. Chi ha detto che è difficile fare nuove amicizie fuori dal proprio paese? Per unirvi alla community, collegatevi al sito internations.org. E abbiamo il piacere di chiudere questa ultima puntata dell'anno che abbiamo dedicato al racconto dell'Europa che è stata con un bel ospite che è ambasciatore del semestre italiano della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Diamo il benvenuto all'astronauta Luca Parmitano. Ciao Luca, buon sabato. Buon sabato a voi e a tutti gli ascoltatori. È stato un bel anno per te, vero? È stato un anno pienissimo, veramente straordinariamente ricco di eventi, di situazioni, di novità, di sfide. Un anno da ricordare sicuramente. E c'è stata anche questa cosa, ambasciatore del semestre europeo che si è chiuso. Dal tuo punto di vista, che esperienza è stata? È un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo sotto vari punti di vista, ma soprattutto vorrei dire dal punto di vista di avermi dato l'occasione di parlare veramente a un pubblico diverso da quello a cui ero solito rivolgermi, perché veramente mi sono rivolto a tutti gli italiani, non soltanto a quelli che si interessano di scienza o di spazio o di tecnologia, ma a tutti in quanto cittadini o coloro che devono prendere la strada del futuro, per parlare di qualcosa che mi sta molto a cuore. Fra l'altro voglio dire veramente di qualcosa di cui bisognerà continuare a parlare, perché non ha assolutamente importanza che il semestre italiano di presidenza si concluda in questi giorni, ma l'Europa va avanti e noi come cittadini dobbiamo essere coinvolti. La tua è una storia europea, tu sei un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Che valore ha raccontare storie come la tua? La tua è una storia grande, però ci sono tante altre storie un po' più piccole, ma altrettanto valide, altrettanto significative, altrettanto piene d'Europa. Si raccontano abbastanza queste storie, secondo te? Secondo me non se ne parla abbastanza, perché altrimenti non si capirebbe il motivo per cui c'è così tanta diffidenza nei confronti di qualcosa che, secondo me, offre opportunità. Bisogna raccontare tutte le storie, grandi e piccole. La mia è una storia che parla di qualcosa che è così lontano nella mente della gente che forse è difficile agganciare una cosa come questa, perché un giovane siciliano che diventa un pilota qui in Italia con un sogno italiano e poi riesce a raggiungere un sogno come quello di diventare un astronauta grazie all'Europa. È una storia che credo risuoni veramente in tutti, e però ci sono tantissimi altri racconti che sono più nascosti, di chi fa l'imprenditore all'estero, di chi va a studiare, di chi fa il volontario, di chi si realizza nello sport in altri paesi, e tutto questo è un messaggio europeo che deve essere raccontato. Dirò una banalità, ma ammetto che ci ho pensato solo ora a questo connubio. Prima, preparando l'intervista, ho buttato l'occhio sulla bandiera dell'Europa. La bandiera dell'Europa è una bandiera blu con sopra delle stelle. Questa cosa ti emoziona? Ma non è assolutamente banale, in realtà, perché è una bandiera blu con delle stelle, quindi un cielo stellato. E il mio augurio è che le stelle siano sempre di più, che sia un cielo sempre più ricco. Adesso abbiamo un certo numero di stelle, speriamo che diventino sempre di più fino a riempire l'intera bandiera. Al di là dell'Europa, invece, Luca, in queste ore, in questi giorni, cosa provi ad alzare gli occhi e vedere lassù Samantha, che in una location che tu ben conosci? Allora, da questo punto di vista divento semplicemente un italiano, quindi orgogliosissimo della mia connazionale, di quello che sta realizzando, e poi da un punto di vista privilegiato, perché io di fatto la sento, perché ci sentiamo via radio quando sono in console al centro di comando e controllo, e poi in maniera molto più semplice anche via email riusciamo a comunicare e a raccontarci un po' quello che sta succedendo. Quindi, insomma, stai viaggiando ancora una volta tra le stelle in questi Assolutamente, giorni? Assolutamente, sì. Di fatto, devo ammettere che anche guardando la sui fermi dal centro di comando e controllo qui a Houston, osservandola, rivivo molte delle mie emozioni, perché lei le vive per la prima volta, e per me quindi è un modo anche di essere partecipe nuovamente, di rivivere la mia storia grazie a lei. Tra l'altro, tu hai inaugurato, in verità sei stato tu quello che ha inaugurato un po' la dimensione social, no, del viaggio spaziale, grazie alle tue immagini, grazie ai tuoi tweet. Sta continuando alla grande, insomma, a tutti sembra di essere lassù grazie alle nuove tecnologie. Ma io spero che questa sia un nuovo modo per far vedere alla gente che innanzitutto gli astronauti sono esseri umani assolutamente normali come tutti, e che hanno una storia da raccontare in cui l'uomo in generale, l'umanità, è protagonista in maniera positiva per una volta, e siamo tutti parte di questa storia, e che poi insomma è una storia entusiasmante che può coinvolgere tutti quanti, che continua. Per cui spero che questo aspetto social sia veramente l'inizio. Magari io forse ho preso il testimone da Paolo Nespoli, che aveva iniziato con Twitter. Adesso Samantha probabilmente è veramente l'esplosione della socialità con la sua bravura, la sua simpatia. Grazie davvero, Luca. Qual è il tuo augurio all'Europa per il 2015? Il mio augurio all'Europa, ma soprattutto agli italiani, devo dire, è che possano guardare al futuro con ottimismo, e che il 2015 sia l'inizio di un periodo di tanti anni in cui gli italiani e tutti gli europei possono realizzare i loro progetti, perché i sogni, è bene avere i sogni, ma è ancora più importante realizzare i propri progetti di ogni giorno, di ogni anno, perché è quello che ci dà soddisfazione. Un grazie a Luca Parmitano, ci ha fatto sognare quando era tra le stelle, ci fa sognare ora che ha i piedi per terra. Grazie, buon 2015, Luca. Grazie a tutti voi, buon 2015. E questo grazie, questo augurio va a tutta la mia squadra, a tutta la squadra dell'Altra Europa, a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleoni oggi in assistenza tecnica. L'appuntamento è a sabato prossimo, saremo come sempre in diretta dalle 12 alle 13 sull'Altra Europa. Potete contattarci, la mail la conoscete, l'altraeuropa@radio24.it. Il nostro più grande augurio di buon anno. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.